su ciò che chiamiamo mente e su ciò che chiamiamo sensi, beh, non c'è mai stata grande univocità di vedute, eh? Soprattutto per quel che concerne la mente, la tradizione filosofica ha continuato ad avvalorarne una concezione statica e negativa. Tolta la fisicità del cervello, ci rimarrebbe la mente, come un magazzino di prototipi belli e fatti, di entità astratte, cioè definite anche se negativo, e dunque inanalizzabili. A maggior ragione sui rapporti di questa mente con l'apparato sensoriale si è detto di tutto ed il contrario di tutto. Su una cosa tuttavia i filosofi sono sempre stati d'accordo: che la mente, qualsiasi cosa fosse, non andava confusa con i sensi, qualsiasi cosa essi fossero. Con quei due nomi, di mente e di sensi, si designava cose sicuramente ben diverse fra loro. Il cosiddetto libero mercato si è sempre coltivato l'idea della psicologia dei popoli. Nell'Ottocento capitalistico abbondavano le notizie sulle caratteristiche di popoli e paesi, purché per lo più rimanessero nel formato asettico della curiosità. Giornali di viaggi, resoconti antropologici di piccolo cabotaggio, annotazioni di psicologia spicciola, c'era da produrre meraviglia e buona coscienza colonialista. Deve essere pressappoco in quest'epoca che si è andata formulando una speciale gerarchia che avrebbe ordinato i passaggi delle merci e dei loro connessi ideologici da paese a paese. Una gerarchia in base alla quale prima qualcosa è in America, poi nel nord Europa, mettiamo dopo un po' al sud, poi all'est e così via. Le guerre, poi, con il peso dei loro milioni di morti, sono servite ai minimi spostamenti adattivi e alla loro ratifica. Quando parliamo degli annessi ideologici di questa gerarchia, ci riferiamo al linguaggio stesso e ai modelli di comportamento che alle merci sono indissolubilmente vincolati. Così, per il cosiddetto libero mercato, ciò che ha da essere consumato in base al valore X dal consumatore Y in tempo Z nel paese Tizio, nel paese Caio sarà invece consumato in base al valore X1 dal consumatore Y1 ed in un tempo Z1. Un bel esempio recente ce lo dà un gelato dell'Algida, Solero, che viene definito come un sorbetto alla frutta esotica con vaniglia e non come un sorbetto alla vaniglia con frutta esotica, per il palese motivo che oggi, qui, da noi, la frutta esotica al borsino dei valori tira più della vaniglia, che pur derivando da un'orchidea messicana ha perso il suo stato di esoticità da tempo. Lo spot televisivo che pubblicizza il Solero nel nostro paese è tipico dei nostri tempi e spiega benissimo alcune malattie dei tempi futuri. Immagini coloratissime e acceleratissime, secondo il modello dei videogiochi, mettono a dura prova le modalità percettive standard, selezionandosi così i consumatori fra i detentori di strutture cerebrali molto plastiche e reattive. Dopo aver garantito minacciosamente che nulla può freddarti la mente come Solero Algida, lo spot conclude definendo il prodotto zero gradi mentali. Di certo non vorrà riferirsi banalmente all'intelligenza di chi lo comprerà, ma la coraggiosa metafora più probabilmente vuol suggerire un'estensione. Quel freddo che tanto piacere dovrebbe dare al corpo accaldato, lo darà tanto da coinvolgere anche la mente. Pubblicità malandrinamente berkeleyana recupera l'es est percipi e ne fa il proprio valore di riferimento. Ma che sostanze, ma che qualità primarie, il freddo, come il caldo, il duro e il molle, sono prodotti innanzitutto mentali. O rinfreschiamo a quel livello o anche il ghiacciolo criofisico a 0,3 gradi Kelvin sembrerà una boule dell'acqua calda. Il piano distributivo del cosiddetto libero mercato, tuttavia, prevede che del medesimo gelato Solero, nella medesima estate del 1996, oltre agli italiani, ne debbano godere anche gli svizzeri. sollecitati dal medesimo spot, perché evidentemente nel processo planetario di rimbambimento percettivo l'ora è giunta unisona per questi due popoli, peraltro contigui. Spot uguali sì, ma slogan, ahimè, no, diverso, molto diverso. Mentre a noi il solero garantisce gli zero gradi mentali, agli svizzeri rinfresca i sensi. E per la prima volta ci è concesso sapere che fra i sensi e la mente la distanza non è poi lunga come la storia della filosofia voleva, che si tratta semplicemente dei due gradi contigui di una scala gerarchica, che per passare dagli uni all'altra occorre semplicemente valicare comodi e vicini confini. Se io fossi negli svizzeri mi arrabbierei. L'opinione corrente attuale sulla storia della filosofia confermerebbe che il sensismo è una soluzione più ingenua del mentalismo. Dunque, il discorso persuasorio riservato a noi prefigurerebbe un interlocutore più avanzato. I poveri svizzeri verrebbero già vilipesi come si accingono all'acquisto del gelato. Ma abbiano pazienza, abbiano pazienza. Se la mia esperienza della storia della filosofia non mi inganna, tutto prima o poi torna buono. Una volta in auge la mente, d'accordo, ma la volta dopo ritocca i sensi. Sappiano aspettare il loro turno. La storia della filosofia è la storia di un maggioritario ben riuscito. Vincono sempre loro, ma nell'alternanza.